Sono andato all'estero, di preciso in Turchia da solo, e ho preso l'eritropoietina in farmacia. Come la prima volta quando mi chiesero: sei al terzo turno degli US Open, cosa ti comprerai? Un jeans. Io vivo, abito a Roma da 18 anni, quindi mi sono prefissato che prima o dopo tornerò. Sono tornato, sono felice. Tutti convocati di Carlo Genta. Tutti convocati qui ogni giorno per parlare di tutto lo sport, perché mentre a Roma è in corso la beatificazione di San Zeman, mentre Vieri beccherà l'ennesimo milione dall'Inter, stavolta senza aver nemmeno tirato un calcio al pallone ma per essere stato spiato, mentre la frase del giorno è quella di stamattina di Adriano Galliani, che dice: vorrei essere triste come Cristiano Ronaldo, anche vista la fidanzata che esibiva a Monte Carlo. Parole e musica di Don Adriano Galliani. Tutti convocati 800 24 00 24. Mentre succede tutto questo, e poi ne parleremo, derby a New York, non per la Team Cup di calcio stavolta, ma per gli US Open. Errani contro Vinci, una cosa grande quella che per il tennis italiano, che si sta abituando a toccare il cielo. Adriano Panatta, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci stiamo abituando ad ogni grande slam. Sì. Arriviamo lì e tocchiamo il cielo. Se scendono un po' di rendimento la Schiavone e la Pennetta, arrivano le Errani, che sarà già affermata insomma con la finale di Roland Garros. Arriva anche Roberta Vinci, che credo che sia la nostra ragazza con più talento naturale. Sì. Per cui una delle due andrà in semifinale, per cui un grandissimo risultato. Insomma, gli US Open sono un torneo molto importante. Gli US Open sono uno dei quattro più importanti, ma noi in ogni quattro piazziamo qualcosa ormai, Adriano. Sì, ma noi siamo europei, per cui guardiamo spesso e più volentieri Roland Garros e Wimbledon. E invece insomma a Flushing Meadows nessuno dei maschietti, né nel passato nel presente, tantomeno le donne, hanno mai fatto molto bene. Questa volta invece vanno molto avanti, insomma, è un risultato straordinario. Io noto una cosa però: non sono più proprio ragazzine le nostre, 26-29 anni rispettivamente Errani e Vinci, ma ci sono anche le Williams, che Serena che continua a vincere, insomma si vede che a differenza del passato le sedicenni al potere non ci sono più. Forse oggi conta qualcos'altro. Che cosa è cambiato, che cosa è successo? Ma prima cosa, il tennis femminile è molto diverso dal tennis maschile. Sì. Prendete le mie parole con non come un sminuire diciamo il settore femminile, però la verità è che nel settore femminile è un pochino più facile, è meno complicato, diciamo il tennis femminile è un po' più semplice che il tennis maschile. Oltretutto nel tennis maschile ci sono 4 giocatori /5 che è difficile scalzare, invece nel femminile c'è Serena, che è ingiocabile quando gioca bene, ma che ha avuto anche delle defaillance abbastanza clamorose insomma negli ultimi 2 anni, no? Poi adesso si è rimessa un po' in carreggiata. La Sharapova, anche lei, anche quando gioca molto bene, è ingiocabile, però è molto più incostante, insomma. I Federer, Djokovic, i Murray, prima che perdono un match nei tornei importanti, insomma, deve succedere un cataclisma. Per cui si è verificato un gruppo di giocatrici che saranno una quindicina, diciamo, una quindicina /20 che riescono a andare molto avanti. Per cui diciamo che le differenze sono minime nel tennis femminile. E quando, come giustamente e grazie a Dio capita anche alle nostre, di giocare molto bene, di essere in forma in certi appuntamenti, vanno avanti perché, prima cosa, perché se lo meritano. Sì. E poi perché glielo consente un po' questo. Non mi ricordo neanche che in questo momento la numero uno femminile, no? Perché cambiano continuamente. C'è la numero uno dell'anno scorso, che in questo momento forse se gioca il torneo di Bibbiena neanche va in finale, no? C'è grande mobilità, c'è grande mobilità. Sì, chiamiamola mobilità, ma insomma questo non è male, mobilità mi piace, come nel lavoro. per cui c'è questo, però le nostre devo dire che si trovano sempre pronte negli appuntamenti importanti, perché la cosa sono brave, perché poi bisogna farlo, non è che... sì, no, però Adriano, noto che anche nel settore maschile, cioè, una volta c'era Becker a 16 anni, boom boom Wimbledon, usciva Chang, poi c'era Agassi che nessuno conosceva, con la testa da pazzo. Anche nel settore maschile di mobilità ce n'è di meno, invece sì, c'è sempre stata molto di meno, insomma, anche negli anni, diciamo, di tanti anni fa. Sul fatto che adesso i giovani riescono un pochino meno a emergere, cioè in età abbastanza, ma sono casi eccezionali. Borg ha vinto Parigi a 16 anni, Becker ha vinto Wimbledon che è 17 anni e mezzo, lo stesso Mecker, insomma, arrivò, certo, a vincere Wimbledon dalle qualificazioni, cioè Edberg. Adesso come adesso invece è un po' diverso, perché i giocatori, come dire, c'è molto più stress, per cui anche il avere un fisico già formato, già un fisico che ti consente di recuperare in una certa maniera, quando c'hai 23-24 anni recuperi meglio che a 18 anni. Chiaro. Poi adesso si tira tanto forte. Si tira tanto forte, oggi come oggi, non bisogna prendere l'esempio di Federer, perché Federer ha giocato un decimo di quello che ha giocato Nadal. Sì. Ma parlo come sforzo fisico, sì, cioè una partita di Nadal, cioè 10 partite di Nadal sono una partita di Federer come sforzo fisico, sì, che io Federer mi manda ai passi, perché cioè lui c'ha al finale di Wimbledon aveva la manetta stirata, sì, e vero, non era neanche spettinato, è vero. Non suda, cioè, animale a sangue freddo. Sì, se uno poi vede Nadal alla fine del match sembra che ha fatto a cazzotti con qualcuno, giusto, perché lui fa a cazzotti, insomma, no? Sarà parente di Zanetti. No, beh, Zanetti è un altro fenomeno della natura, insomma. Però ecco, il tennis in questo momento ci sono i fuoriclasse, ecco, tipo Serena, che quando gioca, insomma, è ingiocabile. Serena tira forte come un uomo, la stessa Venus adesso, quando gioca bene diventa quasi, però mai sono incostanti, hanno altri interessi, pensano alla moda, allo show business, certo, per cui la stessa Sharapova, insomma, non sono così concentrate, c'è tutto uno show business dietro che prima, insomma, anche 15 anni fa non c'era, insomma. No, naturale. Pronosticabile un derby? Tra chi? Tra quelle due che giocano a New York. Ma le balle delle sorelle? No, Sara e... Beh, c'è il derby, due, no? Appunto, è pronosticabile. Ah, pronosticabile. Pronosticabile. Ah, ho capito. Ma sono due giocatrici completamente diverse. In questo momento la Vinci sta giocando molto bene. Dipende anche quanto è stanca, perché insomma ha vinto anche la settimana scorsa, per cui si accumulano match dopo match, per cui potrebbe anche essere un po' più stanca della Errani. La Rani ha vinto un grande match, insomma. Insomma, vediamo chi ne ha di più, insomma. Onestamente, insomma, chi vince, l'importante è che poi si possono addirittura giocare. Adesso non c'ho il tabellone davanti ai miei occhi, non so poi chi vince contro chi va a giocare in semifinale. Non ce l'ho nemmeno io. Però glielo dico, perché c'ho davanti il computer, lo posso dire. Adesso lo cerchiamo insieme. Comunque, adesso lo cerchiamo insieme. Però derby comunque impronosticabile, vince chi ne ha di più probabilmente. Giocano contro la Williams. Sì. E lì è dura. Con Serena, sono un po' chiuse. O la Ivanovic, insomma. Ivanovic se lo fa. Sì, ma Ivanovic se batte Serena se deve portare a cannone. quello è un altro tennis, insomma. Ho visto lei, Serena distratta, Ivanovic che comunque ha talento, riesce a inventarsi qualcosa. Vabbè, no, le speriamo tutte, Adriano. Sì, speriamo. Sì, noi speriamo, però insomma, costa niente. Difficile, ma già insomma arrivano in semifinale una delle due. Ah, è un enorme risultato. Risultato. Un'ultima Io cosa. So la differenza, insomma, di giocare in America è certo, complicato che giocare in Europa. È certo. Un'ultima cosa, Roma-Lazio dell'11 novembre, pronosticabile? Allora mi vuoi male oggi, insomma. Te voglio male. Vabbè, c'è la beatificazione di Zeman. A me già il fatto che Zeman sia arrivato a Roma ti ha gasato, rischiarato il cuore, come posso dire, perché lo trovo, a parte che di una simpatia, di un'intelligenza, sì, di un'ironia, sì, che manca completamente al 99% degli addetti ai lavori, che sono di una tristezza e di una, sì, banalità nelle, sì, loro interviste. Sì. Insomma, uno ascolta Zeman o ride sicuramente e dice qualcosa di interessante. Esattamente, questo senz'altro. Al di là poi del gioco, che insomma, domenica scorsa ci siamo divertiti. Quella prima un po' meno, però comunque adesso Zeman santo, ieri è salito al Campidoglio a prendere un premio e santificazione di Zeman. Adriano, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, un ciao. Abbraccio. Una cosa è offendere l'uomo, offendere la persona, questo io non lo accetto, perché io sono più uomo io di tutti voi messi insieme. Chissà se intercettavano anche le conferenze stampa. Come detto prima, Vieri si becca una milionata dall'Inter per essere stato spiato per la vicenda di spionaggio ai suoi danni. Come sapete, la storia è vecchia, spionaggio messo in atto dalla security di Telecom quando era guidata da Giuliano Tavaroli, eccetera eccetera. La notizia è che l'avvocato Buongiorno Danilo, naturalmente, trasmetterà alla giustizia, che magari poi arriva anche ai nostri microfoni, abbiamo chiamato, cercato stamattina per sentire cosa ha da dire o da aggiungere, per chiedere la riapertura del procedimento che era stato archiviato, la sentenza con la quale Inter e Telecom sono state condannate a pagare 1 milione di euro all'ex calciatore per un'attività di dossieraggio ai suoi danni, cosa che gli ha provocato, come sapete, disturbi del sonno, depressione, eccetera, eccetera, eccetera. Vale 1 milione. Andrea da Varese, 800 24 00 24, tutti convocati sui telefoni, messaggi 349 238 6666. Naturalmente c'è Twitter, naturalmente c'è Facebook, insomma, non potete non partecipare. Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire sul tennis, però prima volevo dire una cosa. Dica quello che vuole. Non c'è, nessuno vede il collegamento tra questa vicenda relativa a Vieri e Calciopoli. La butto lì, sì. Non aggiungo altro. Cioè, ne ha buttata lì una leggera, cioè una piuma. Sì, proprio leggera, così. No, a parte questo. Io, senta, ma è d'accordo con me che la frase del giorno, non le abbiamo sentite ancora tutte, però è quella di Galliani? Che era il momento in cui parlavo con l'operatore, per cui allora gliela ripeto, poi magari riusciamo a beccarla anche in audio. Vorrei essere triste come Cristiano Ronaldo, anche vista la fidanzata che esibiva a Monte Carlo. Beh, cavolo, io vorrei essere triste anche un quarto di quello che è triste Cristiano Ronaldo. Un quarto, solo sì, un quarto, anche meno. Io no, quasi quattro volte tanto. Io quasi, sì, quasi mollo tutto, salgo sul palazzo e mi butto giù. No, vabbè, non esageriamo. Dica. A proposito del tennis, no, sì, io volevo estremizzare un attimino il concetto che riguarda il tennis femminile. Allora, io sono molto contento per Ragni e Vinci, che sono due bravissime ragazze, due bravissime tenniste, soprattutto due giocatrici che giocano soprattutto col cuore. Però lo specchio è che comunque ci troviamo di fronte a un momento preoccupante per il tennis femminile, nel senso che mancano gli spot per questo sport. Nel complesso, cioè, lei dice? Cioè, sì, il tennis, esatto, femminile attraversa una fase di crisi. Esatto, cioè, nel senso, per il tennis italiano è positivo perché comunque veicola lo sport, vi dicendo. Sì. Però mancano i talenti, manca lo spettacolo in campo. Cioè, non vediamo a parte Serena... Beh, non c'è Federer, lei ha ragione, manca qualche talento rispetto al passato, si gioca anche in un altro modo, si tira molto più forte, però a me viene in mente ad esempio quell'esibizione, si ricorderà, no, tra le sorelle Williams, Pennetta e Schiavone al Forum di Milano, che riempì il Forum di Milano come neanche per le finali scudetto dell'Armani, vabbè che lì si sapeva che vinceva Siena, però... Insomma, la gente ha voglia di questi personaggi, ama questi personaggi. Io questa crisi così radicata non la vedo. È solo spettacolo, è solo puntissimo, cioè nel senso, quando vedo una partita di maschile, se non vedo Federer, vedo Djokovic. Se non vedo Djokovic, bravo, vedo Nadal. No, aspetti, no, un attimo. Io mi diverto con Federer e con Djokovic, con gli altri no. Sì, anch'io. io, onestamente, ma anche per una questione di simpatie e antipatie. Sì. Murray, diciamo che lui non mi sta molto simpatico, però è innegabile il talento, ecco. Sì. Mentre però in effetti anch'io, quando giocano Djokovic e Federer mi diverto, con altri un po' meno, anche per una questione soprattutto di pelle. Cioè di, no, sono d'accordo. Non sta simpaticissimo anche a me il tennista spagnolo, peraltro poveretto adesso infortunato che dovrà star fuori ancora per un po'. Non c'è dubbio che quando vedo ogni finale tra Federer e Nadal non ho mezzo dubbio su a chi va il mio tifo. Andrea, grazie. Grazie. Grazie. Faccio un po' di allenamento, dai, per perdere un po' di peso. Però qualche gol, se mi capita la palla, la butto dentro anche con la pancia. Sa dov'è adesso Bobo Vieri, che cosa sta facendo? Se poi c'è il suo avvocato glielo chiediamo, perché ne ho perse le tracce, ma sarà anche perché non sono un gran lettore di rotocalchi femminili, di rotocalchi rosa. Non so Andrea Schianchi, che su un giornale rosa scrive, la Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come stai? Tutto bene. Tutto bene. Piacerebbe anche a te beccare una milionata così gratis dall'Inter per essere stato spiato? Sì, non mi dispiacerebbe, direi. È che spiando me scoprirebbero ben poco, credo. No, vabbè, però insomma, questa vicenda qualcuno adesso ha già cominciato a buttare un sassolone, cioè dice, ma questo qui non c'entra niente con Calciopoli. Beh, ci andrei piano. Ma insomma, andrei piano davvero, perché qualche cosa secondo me alla fine c'entra. Insomma, quella è una vicenda, secondo me, piuttosto torbida, non si è ancora veramente fatta chiarezza. Temo che, come in tutte le cose italiane, da Ustica in avanti e indietro non si farà mai chiarezza. Sì, quindi mettiamoci il cuore in pace. Probabilmente non si arriverà ad una chiarezza definitiva nemmeno sulla storia dell'allenatore dietro al vetro oscurato. Ma direi di no, cioè siamo in un paese che probabilmente o della verità ha paura, oppure, essendo nato nella cultura del sospetto, non riesce ad accettare il fatto che possa esistere una verità. Cioè siamo ancora a discutere sul perché, facendo appunto una escursione nella, diciamo così, nella politica eccetera, siamo ancora a discutere sul perché è stato ammazzato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. È successo 30 anni fa, sì, quindi, per insomma, motivi politici, ha detto ieri la figlia. Quindi, cioè, no, ma io immagino che, anzi sicuramente è così, ma di fatto in 30 anni di indagini eccetera non siamo ancora riusciti a scoprirlo. Siamo un paese così, dobbiamo anche rassegnarci, e secondo me, possibilmente, per evitare di farci del male, dovremmo cercare di evitare paragoni con paesi stranieri e anche ovviamente calcio straniero, perché sennò ci si fa solo del male. Hai detto giusto, ci si fa solo del male, caro Andrea. Cosa ne pensi del processo di beatificazione in corso a Roma con Zeman, di cui parlavo prima anche con Panatta? Ma io francamente non riesco a capire che tutti questi che hanno scoperto Zeman adesso, non lo dico, per chi mi conosce sa che non mi glorio assolutamente di cose fatte o studiate o scoperte, resta che io Zeman l'ho scoperto nel 1987, quando venne a Parma ad allenare. E mi regalò una delle notti più memorabili da tifoso del Parma, diciamo così, perché battemmo il Real Madrid 2-1, era il Real Madrid di Butragueño, tanto per intenderci, di Mitchell. E poi però dopo 9 giornate, se non ricordo male, venne mandato via con improperi, perché il Parma era ultimo in classifica in Serie B. E Zeman non è cambiato da allora, il suo modo di giocare è sempre quello, è sempre lo stesso, gli allenamenti sono sempre quelli, i gradoni, certo, e tutte queste cose. Quindi chi lo scopre oggi, francamente, a me no, fa, certo, un pochino, ma lui richiede, fa un pochino impressione. Lui richiede però un certo tipo di comeinismo che non tutti i giocatori, non tutti i gruppi sono disposti a dargli. Secondo me il senso è un po' quello, richiede un certo settarismo ai giocatori che allena. Guarda Carlo, io sono assolutamente d'accordo con te, ti dico però anche una cosa, che lui lui nel senso di Zeman Khomeinista e nel senso di Zeman integralista, la partita contro l'Inter l'ha persa. La partita contro l'Inter l'ha vinta l'anarchico Francesco Totti, come ho scritto ieri sul giornale, che relegato sulla fascia sinistra dell'attacco ha detto: siccome io sono Totti e siccome sono probabilmente in attività uno dei migliori calciatori al mondo, aspetta un attimo che penso ti faccio di fare vedere come si fa di fare calciatore e di giocare a calcio ha giocato a calcio, non facendo i movimenti che, tanto per intenderci, a Pescara faceva Immobile, Sansovini o Insigne, cioè si è messo a fare il calciatore, ha interpretato il ruolo, non in modo khomeinista, perché io francamente i khomeinisti, da Sacchi a Zeman, passando per i vari cloni, mi fanno abbastanza sorridere. Il calcio lo fanno i calciatori. Certo, non fa una grinza. Andrea, ti ringrazio, anzi ti chiedo un'ultima cosa. Sai che cominciano a dirmi in tanti: avete visto la Juve che ha ricominciato a rubare? No, rubare no. Adesso rubare è una parola un pochino forte. Mettiamola così: nelle prime due giornate, mi riferisco al rigore concesso contro il Parma quando c'erano due metri di fuorigioco di Lichtsteiner e l'espulsione di Berkic, ha avuto due favori arbitrali. Rubare, sai, prevede che esista un reato, insomma, adesso mi contempla reato, contempla reato, qui contempla casualità. E poi naturalmente, sai come si dice, alla fine tutto si bilancia. Questo lo scopriremo vivendo. Andrea, grazie. Grazie a te. Ti mando un abbraccio. Ciao, anch'io. Ciao. Stefano Della Casa scrive su Twitter: se come dice Silvio siamo tutti intercettati, il prossimo mese voglio un milioncino in busta paga. Mentre la frase di Galliani di qui sopra come frase del giorno è stata superata da un SMS 349-238-6666. Purtroppo non c'è l'autore, ma è questa: ma smettila, sei geloso di chi ha guadagnato un sacco trombandosi il meglio. Piero, da Perugia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ringrazio di avermi dato la linea. Grazie a lei, dica. È la seconda volta, ma no, volevo dire che questa cosa di Vieri, di queste milioni, poi dei soldi dati in nero dalla Telecom, ma deve pagare solo la Juve? Paga anche l'Inter un milione a Vieri. Dei soldi in nero, tutte le cose. C'entrava anche quel povero Facchetti. Ma deve pagare solo la Juve. Quali soldi in nero? A quali si riferisce? Dei soldi che hanno dato a Vieri, non lo so. A Vieri? Me lo diceva mio figlio lì, io... Io so che adesso gli deve dare un milione in bianco dichiarato, poi se gli ha dato i soldi in nero vediamolo scritto su qualche sentenza, magari non ricordo io, con tutto, forse sta su Facebook, sta su Facebook. Allora la fonte, guarda, è di quelle attendibili. non lo so. So che la causa è questa, c'è una sentenza di primo grado e quindi Vieri beccherà questo milione. Passare dal pallone al ballo è stato difficilissimo, perché io non ho mai ballato, non sapevo ballare, mi vergognavo, quindi ho cominciato 10 giorni fa e le cose devo dire che stanno andando abbastanza bene. Piero Lugo di Romagna, buongiorno. Buongiorno. Cristian mi scrive: non sapevo che era juventino, infatti non lo sono. Dica. Io volevo parlare un attimo di tennis. Sì, ma si può parlare di quello che si vuole, si può parlare di qualunque cosa, anche di rugby, di lancio col disco. Siete tutti convocati, tutti voi che volete parlare di sport in quest'ora. Certo che può parlare di tennis, che domande. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che io ieri sera, incredibilmente, ho visto una tennista, una femmina. Io sono un giocatore, gioco a tennis da 50 anni, no, sì. 50 no, 40. Sì. Vincere una partita giocando il rovescio tagliato e il serve and volley. Chiarisca agli ascoltatori profani di chi si tratta. Si tratta di Roberta Vinci, che ieri ha battuto la Azarenka, numero 2 del mondo, la Radvanska, la Radvanska numero 2 del mondo, 6-1, 6-4, quindi esatto, in maniera nemmeno troppo e così, poteva sofferta. Essere più pesante, perché dopo aver fatto il break, essersi portato 3-1, poteva vincere anche meglio nel secondo set, quindi però il rovescio tagliato nel circuito lo gioca lei e altre 2-3 tra gli uomini non lo gioca più nessuno a parte Federer naturalmente, e io non mi diverto più a vedere solo delle botte, io mi diverto molto di più. Domanda per arrivare in fondo, sì, ma lei, secondo lei, io perché da solo non ci sono arrivato, perché questi colpi non si giocano più? No, no, questo bisognerebbe chiederlo agli allenatori o alle stesse tenniste. Io lo posso chiedere a lei che è un tennista. Io non gioco a tennis, non può fare questa domanda a me. Poi io condivido la sua considerazione, infatti mi diverto a vederne pochissimi di tennisti, non mi diverto a vedere Nadal, mi diverto per l'appunto a vedere Roger Federer, che questo colpo ce lo regala ancora, così come mi diverto a vedere Djokovic, che è un tennista di grande fantasia. Il motivo per cui questo tipo di colpo sia caduto in desuetudine non glielo so dire. Lei invece mi sa fare un pronostico sul derby di New York, il Rani o Vinci? Senta, Sara Errani è nata e ha vissuto a 5 chilometri da dove vivo io. Sì, vabbè, quindi fa il tifo. Cioè, non è che possa, anzi, il babbo lo conosco anche, quindi cioè, non posso non fare il tifo per Sara Errani, ovviamente. Però il cuore del tennista dice Roberta Vinci, perché ha un modo di giocare molto, molto più divertente per chi guarda il tennis e per chi è appassionato di tennis. Secondo me. Lo scopriremo nella notte. Lo scopriremo nella notte e facendo il tifo per Anna Ivanovic contro Serena Williams. Ma mi sa che, come diceva Panatta prima, per la bellissima Ivanovic battere Serena, insomma, ci vuole il cannone. Se non si infortuna. Speriamo di no. Ha passato i primi 5 mesi dell'anno passando da un infortunio a un altro, fino a che non ha trovato il nuovo allenatore, probabilmente perché ha una struttura muscolare che non è sproporzionata. Ma certo, questo è evidente. Grazie, torni a trovarci. Senz'altro. Sempre la saluto. Qui. Tutti convocati, anche lei, ogni volta che vuole. Benissimo, grazie. Saluto. Grazie. Abbiamo anche questo non era Vieri, Abbiamo anche un qualcosa di qualche dichiarazione di Tavaroli, tante volte ospite qui. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu. Tronchetti, come qualche volta succede, mi chiama e mi dice: guardi, la cercherà l'Inter e il dottor Moratti, che hanno bisogno di lei. Anche tu. Quindi nel 99 vengo poi contattato da Moratti, che mi chiede sostanzialmente di dare una mano alla società a capire se alcuni giocatori rispettano sostanzialmente il regolamento. A un certo punto Vieri viene preso in considerazione da Pirelli per essere uomo immagine. E quindi rinasce il problema che era già sorto alla fine del 99 e del 2000 delle voci sul suo stile di vita, sul suo stile di vita di sportivo. Queste alcune dichiarazioni di Giuliano Tavaroli, che potrebbe essere ospite della Zanzara questa sera, così ho sentito, ve la butto lì così. Eris da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire qualcosa a proposito di Zeman, visto che è santificato da tutti. Cioè, io ho visto la partita, da un bel gioco, tutto quello che vuole, però insomma deve poi anche dimostrare, perché lui ha avuto la possibilità, non è che lui non sia mai stato, è stato alla Roma. L'anno dopo che se n'è andato, la Roma ha vinto lo scudetto, è stato alla Lazio. Quando se n'è andato, la Lazio ha vinto lo scudetto con Eriksson. Quindi tutto questo Questo santificare. Brava, ma è un allenatore che ha un'area di ha un'aurea di così di sacralità, sì, pur non avendo vinto nulla, che è unica. Del vostro, questo fatto, pensi che io non sono neanche juventina, sì, però credo di essere un pochino qualche volta obiettiva. Cioè, ma lui si è costruito il suo, quelli dell'Inter. Io non vedo tutti questi santi, non li vedo nel calcio. Poi che la Juve abbia sbagliato di più, non lo metto in dubbio, non metto in discussione questo. Però che questa Inter sia diventata anch'essa santa proprio perché non ha mai fatto niente, non mi sembra proprio. Stiamo parlando di un'altra cosa o sbaglio? No, ma così un po' di cose. Cioè, stavamo parlando di Zeman, mi pare, e lì ero d'accordo con lei nel dire. Zeman viene anche santificato dall'Inter e lui ha questa simpatia per l'Inter, che sembra anch'essa santa, cioè che non abbia mai fatto nulla, tipo i passaporti, tipo. Cioè, è questo che io non capisco. Io le giuro che nel calcio di santi non ce ne sono, ci sono solo carogne. E quello che penso anch'io, è questo che mi infastidisce un po', insomma. Cara signora, teniamoci i nostri fastidi comuni, le assicuro, teniamoci i nostri fastidi comuni. Io ho detto molte volte che Zeman alla fine è forse uno degli allenatori più famosi d'Italia, pur senza aver mai vinto uno scudetto, tanto per dirne una. Continuo a sostenere, mi è simpatico, ma io continuo a pensare che si sia costruito un personaggio, quindi una carriera, quindi anche degli ingaggi su questa sua anti-juventinità, su questo suo modo di vivere il calcio in maniera estrema sul campo, no? Questo fare un gol in più, questo divertire, questo essere l'allenatore unico depositario del bel gioco, e su questo si è costruito comunque una carriera. Luigi Milano, buongiorno. Luigi, le giuro che non la stiamo intercettando. Pronto? Pronto? Cosa sta facendo, Luigi? No, il problema è che stavo ascoltando ma non sentivo più niente. Ah, ho capito. No, io sentivo un gran casino e... Dunque, io volevo fare un intervento sul tennis e rispondere alla domanda che ha fatto un precedente ascoltatore sul fatto che certi colpi non si vedono più. Sì. Io sono un tennista dell'epoca di Panatta, all'epoca ero un seconda categoria, quindi sì, discreto, e devo dire che purtroppo non si fanno più questi colpi perché la tecnica che una volta si insegnava tantissimo, oggi non solo nel tennis, non si insegna più. Semplicemente si butta di là il pallone, la palla, con quanta più forza e violenza possibile, ma non si gioca di fantasia, non si studia se il giocatore di là si muove meglio lateralmente piuttosto che in avanti e indietro, non si fa queste cose. Senta, Luigi, ma al di là dell'insegnamento, è possibile oggi giocare ancora a serve and volley come si vedeva una volta, oppure no? Cioè, riuscirò a vedere una finale di Wimbledon con il giocatore che segue il servizio, va a rete e chiude la volée? Riuscirò mai? Secondo me sì, basta che si cominci ad insegnare la tecnica e non più solo la violenza nel colpo. Però se c'è questa violenza nel colpo diventa, lei mi insegna, molto più difficile giocare di tecnica, o no? Sì, ma guardi che non è necessario sparare il servizio sempre a 230 all'ora, si può anche lavorare il servizio, e una volta te lo insegnavano a far saltare male la palla di servizio, magari sulla seconda, mettere in difficoltà con il rimbalzo fasullo. Guardi che io giocavo sul cemento, non sulla terra rossa, quindi su un campo molto veloce ti insegnavano a giocare al massimo a mezzo metro dalla linea di fondo. Infatti Federer gioca lì, guarda caso, invece oggi si gioca 5 metri al di qua della riga di fondo. In questo match tennistico tra me e lei le ribatto che Federer è l'unico che può permettersi di giocare facciamo un metro dalla linea di fondo, gli altri non possono, semplicemente perché devono rispondere a delle sassate che arrivano dall'altra parte. Federer, che è di un altro livello, può permettersi di giocare lì. Poi ha ragione lei sul fatto che probabilmente certi colpi non vengono più insegnati perché non sono più funzionali al gioco che si fa adesso. Grazie della lezione, signor Luigi. Può essere che stai un poco triste. Esa è la unica ragione. Quando non commemoro los goles e quando non sto felice. La gente sa perché. E allora non ci resta che fare un salto nel paese, nella città della tristezza sconfinata. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao. Il silenzio indicava la tristezza. Indicava la tristezza, l'ho capito benissimo. Non riesci a parlare, e d'altra parte ti tocca abitare a Madrid, nella città più triste del mondo. Come si dice tutti convocati in spagnolo? Todos convocados. Facilissimo, todos convocados. 800 24 00 24, numero verde. Caro Filippo, la situazione è grave. Cosa non si fa per i soldi, potremmo dire, no? Sono depresso in maniera feroce, quasi quasi. Sì. No, poi la cosa più bella sono anche le reazioni della stampa locale, sono quasi altrettanto valide. Sì, perché adesso c'è due giornalisti qua, diciamo, considerati ascoltati, sono arrivati a dire che lui è triste perché ha litigato con Marcelo, che a me mi fa abbastanza ridere, no? Sì, ha litigato con Marcelo e quindi, quindi si è incupito. Si è incupito, no, vabbè, quella non è la ragione assolutamente. Sì. E, oppure si hanno detto che ha pianto per 20 minuti. Ah, mamma mia. Quando è uscito in zona mista, tra l'altro super teatrale, lì è un grande, in questa cosa comunque Ronaldo è bravissimo, ai tempi tecnici della dello showman. Sì, perché lui arriva, passa, sì, e poi guarda, ammicca, gli occhi non sono lucidi, non ha pianto per niente, e dice: volete che parli? Non si era preparato nulla si era preparato. E poi si ferma, sto triste con questa S un po' affogata. Sì. Io gli darei due schiaffoni, ma pensa un po'. Ma no, dai! Ma no, che triste di che? Cioè, il problema non è questo. Allora, no, io ti dico che la seconda frase più bella del giorno è quella di Galliani, che non avrai ancora sentito, no, e che dice: no. Vorrei essere triste come lui, anche vista la fidanzata che esibiva a Monte Carlo. Questa frase, che era quella del giorno, secondo me, è stata superata da quella di un ascoltatore prima, quando parlavo di Vieri, che intascherà un milione dall'Inter per essere stato spiato, e c'è l'ascoltatore che mi ha scritto: ma smettila, sei geloso di chi ha guadagnato un sacco trombandosi il meglio. Includiamo anche Cristiano Ronaldo in questo concetto. Certo, però io dico, adesso spero che Galliani ci stia ascoltando, Galliani per me non è secondo a Ronaldo in situazioni femminili. Sì. Si è sempre circondato di persone di un certo livello. Sì, quindi, assolutamente. Comunque Irina effettivamente... Senti, però più di Irina potè Marcelo, dunque. Ma Marcelo non c'entra niente. Il discorso è questo. Cioè, quello che gli rimproverano a Cristiano può anche avere le sue ragioni nell'andare a batter cassa. E adesso lo spiego tra un minuto. Sì. Però il problema è che non puoi batter cassa così. Mettiti lì e dire: guarda, presidente, allora, guadagno come Kakà, che in un'intervista di domenica dice: io sono contento se entro nella trasmissione di Carlo Gento, ovvero se mi convocano. Sì. Perché questo ha detto. Lo convochiamo, noi lo convochiamo. Esatto, senza noi lo convochiamo, il problema è che non si fa convocare. Però, quindi lui adesso, Kakà, uno che guadagna come Ronaldo, 9-10 milioni netti a seconda delle interpretazioni, dice: ah, per me è già un successo se mi convocano. Ronaldo, che ha fatto 46 gol in Liga, magari può vedere la cosa un po', no? Gli può mettere un po' di malumore. Sì. Poi, da quando ha fatto il contratto lui... Sì. Allora, Ibra gli è venuto il mal di pancia due volte e ogni volta Dunk guadagnava di più. E tu se l'hai andato in Russia, è così. Ah, quindi tu vuoi dire che ha capito il gioco? Beh, insomma, vuol dire, non è più al top. Messi guadagna di più. Sì. Che proprio non come gli va giù. Don't mention proprio... the war, no? Sì. Non menzioniamo la guerra. Proprio sì, Messi, sì, la parola Messi non è. E guadagna di più. Drogba guadagna di più. Forse anche Fernando Torres segna un gol ogni 15 partite. Allora ha ragione. Guarda, sono arrivato alla conclusione che ha ragione. Lui ha preso la lista di quelli che guadagnano di più e gli è venuta la tristezza. No, allora sono d'accordo con CR7. Non c'è dubbio. Adesso. No, lui, veramente, vuol dire, in un mondo come quello del calcio, ci sta che dopo 3 anni, lui, senti, io il mio l'ho fatto. Ho fatto 150 gol in 149 partite. Magari, no? Se ci puoi pensare, no, discorso con Florentino, il problema è che Florentino gli vengono i sudori freddi, perché per rinnovargli il contratto è uno scatapascio di milioni che se ne vanno. Perché adesso lui è protetto dalla legge Beckham, perché il contratto è stato firmato quando la legge era ancora in vigore, quindi il Madrid paga il 24% in tasse sul suo contratto, se glielo rinnova scatta il 52%. Capito? Quindi anche dice, va bene, ma ti do 2 milioni in più. No, disastro. Si può dire che sono 10 in più. Disastro mondiale. E d'altra parte... Quindi chi dovrebbe essere triste? È Florentino. Che lo sarà per la sua parte, voglio dire. È per questo che ti dicevo che Madrid adesso è la città della tristezza perenne, no? Sì. Dopo come, la movida, come arrivi alla, come, dopo la movida, come arrivi all'aeroporto, ti metti a piangere. Sì. Insomma, c'è una cappa. Beh, ma come finisce questa storia? Che Florentino va al banco di Santander, dove allora, ha la sua cassaforte personale. Deve sperare che Alonso vinca il mondiale. Deve sperare che gli aprano la porta, tanto per cominciare. Vabbè. Magari ancora gliela aprono. Sì. Lo fanno anche sedere e gli offrono anche un po' di jamon. Però, e poi bisogna vedere. No, il discorso è che comunque vendere Ronaldo non è tanto semplice. No, che non lo è. No, non perché lo è. Detto, non lo è perché... Qui, io leggo sui giornali, i russi, lo sceicco, ma insomma, questo, mettiamo che adesso guadagna 9 o 10, ne vorrà 12 o 13 per 4-5 anni, più è stato pagato 96 milioni di euro. Ce ne vuole qualcuno. Io non la vedo così agevole l'operazione, cioè, allora teoricamente se la mettiamo così puoi andare a comprare anche Messi. No, chiaro, questo è chiaro, l'unica cosa è che Messi non è così triste. No, Messi non è triste neanche un po', e allora bisogna porre rimedio alla tristezza del povero Cristiano. C'è anche lo Zenit che peraltro ne ha sganciati 40 per Hulk, quindi denari dell'est. 50 per Hulk e 40 per Witzel. Witzel 40 milioni, cioè allora il confronto di 30 milioni per Coentrao sembrano pochi. Sì, no, sono d'accordo. Mani in alto, questa è una rapina. Però voglio dire, adesso io non ce lo vedo Ronaldo col bisogno che ha di apparire, cose, andare all'Anzi, andare allo Genoa. No, questo è fuori di dubbio. Cristiano Ronaldo può andare al Manchester City, può andare nella prossima edizione del Paris Saint Germain, punto e basta. Sì, perché Paris Saint Germain, quando vuoi tutte le domeniche vai a giocare con l'Orient. Lo so, ti capisco. Non è che in Spagna vai a giocare tutte le domeniche contro il Barcellona. Allora, i diritti li hanno venduti. Sì. Cioè, in Cina o in Asia, dove lui comunque ha un mercato, perché poi anche questo, aspetta. C'è l'ingaggio, ma poi c'è la pubblicità. Sì. Se tu giochi in un campionato mediocre, probabilmente tira anche meno il tuo personaggio. No, ma questo sì. Sono conti che il tristissimo Cristiano Ronaldo starà facendo insieme. Comunque tutto questo, non so, che potremmo parlare tutto il giorno, però c'è la persona chiave è un'altra. Cioè? O sono due. La persona chiave è Jorge Mendes, Il suo procuratore. Che è impossessato del club, praticamente, del Real Madrid. Certo. È il rappresentante di Ronaldo, ma anche il rappresentante di Mourinho, che è il direttore generale, cioè il general manager di questo club. Quindi è quello che dovrebbe risolvere questo tipo di problemi. Qui c'è un conflitto di interessi enorme. Ma va. Due conti li avevo fatti anch'io su Jorge Mendes proprio ieri. Filippo, ti ringrazio perché mi sta scendendo la lacrima, non riesco più a parlare. Ciao. Alessandro, Milano, poi andiamo a casa. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno, dica. Allora, guarda, io approfitto del fatto che ci ha convocato tutti quanti perché così parliamo anche di rugby. Sì. In particolare della vittoria di Treviso sugli Ospreys, che è stata una vittoria molto bella nel risultato, magari più che nel gioco, però in un momento importante in cui una squadra italiana batte la detentrice del titolo e oltretutto in un momento in cui la squadra della federazione... In un periodo di elezioni, tra l'altro, io volevo parlarne. Guardi, le dico la verità: volevo delle zebre. Io volevo parlarne nei prossimi giorni. Ecco, sì, ma sarà veramente interessante perché, mio malgrado, in malgrado di tutto il movimento, è una squadra che avrà un cammino in salita non indifferente. Mentre Treviso, che è l'altra candidata indirettamente alla presidenza, chiaramente sta facendo molto bene e sta mettendo le basi per fare meglio. Allora, adesso, visto che abbiamo ancora 20 secondi di trasmissione, io raccolgo e ringrazio davvero Alessandro per aver introdotto anche questo argomento che ovviamente tratteremo. Io vi lascio con una notizia, guardate un po'. In Australia insistono, accordo con il Sydney per un biennale per Del Piero, domani l'annuncio, così dicono in Australia, ma l'ex capitano della Juventus per ora tace, sarà molto triste anche lui. Devo chiudere? Domani, Marcello da Roma convocato per primo domani, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Pietro Lacorte in regia, torniamo naturalmente domani alle 14, ciao a tutti.